Gigi D'Agostino. La compagnia è precisa, la strada non si è mai divisa. Accelerata, va. Party people! sei su M2O. Parti per un viaggio senza ritorno e troverai l'amore intorno. Solo con Gigi D'Agostino, la sua musica e il suo cammino. Penso spesso a come potrebbe essere stato. E mi piace com'è stato. Se non fosse stato così, io non sarei cos'è. E mi piace questa roba qua. Essa si trasforma in forza dell'inconscio. Ritmo strano. M2O. Ti muovi. Piano. Piano. Parliamo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Piano piano. Parliamo. Piano piano. Quateriano. Ti muovi. Piano. Piano. Dammi un'accelerata, va. Quateriano. Ti muovi. Piano. Piano. Parliamo. Thank you. è il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. I know. Non si vede ma si sente, questa è l'ora. Questo suono come un tuono è presente nella mente, grazie a Gigi intensamente. Il cammino di Gigi D'Agostino. Un programma non programmato, un gesto involontario. Was a silhouette of a gun, far away on the guardare con gli occhi degli altri. Posso solo creare ciò che io credo sia la verità. D'Agostino dal vivo sabato sera 15 ottobre 2005 The Spider, corso Stalingrado 158, Bragno, Savona. Domenica pomeriggio 16 ottobre 2005 Expo via Retrone 41, Altavilla Vicentina, Vicenza.